non approvazione di un testo da parte del Consiglio dei Ministri. Questo è lo stato dell'arte. Quindi tutto quello di cui si discute per il momento è aria, quasi fritta. Aria fritta. Senta, quasi fritta. Senta, uno dei termini su cui si discute molto è l'articolo 18, anche se è una delle parti della riforma, però è una di quelle che fa più discutere. Per esempio, lei capisce quando le parti sociali e alcuni sindacati chiedono che si preveda il reintegro anche per il licenziamento per motivi economici e non il solo indennizzo? Oggi ancora il ministro Fornero ha detto su questo non recediamo in un'intervista a Repubblica. Allora, ancora una volta, io aspetto di vedere il testo, non c'è il testo della riforma dell'articolo 18, quindi quello che è venuto fuori in questi giorni sono solamente anticipazioni, descrizioni, conferenze stampa. Dico con un sorriso, se l'avessimo fatto noi, con il nostro governo, un tale, come dire, balletto di testi, linee guida, approvazioni, non approvazioni, saremmo stati distrutti a partire dal Sole 24 Ore e magari dalla sua radio, ottima radio, cosa che non avviene. E invece sta succedendo un'altra cosa, lo scrivo io oggi in un articolo, non si è accorto nessuno o quasi che negli ultimi giorni lo spread in Italia è aumentato di 40 punti, è aumentato anche in Spagna di più, si sta profilando, speriamo non sia, una nuova crisi finanziaria dell'euro, con al centro in questa fase la Spagna per i suoi problemi di raggiungimento dei target di rapporto deficit-PIL, sì. E poi si sa come iniziano le bufere. Ma lei infatti oggi sul giornale ha pubblicato, ma lo pubblica da un po' di tempo, questo, come lo chiama, tormentone spread, perché, perché fa questa... Ma perché io voglio fare un'operazione verità. Allora, io oggi dico sul giornale che lo spread peggiora e non è colpa di Monti, perché se fossi stato opportunista avrei detto lo spread peggiora, è colpa di Monti. Però peggiora negli ultimi giorni, ma è migliorato rispetto a, diciamo, a qualche mese fa. È migliorato nel senso che è andato giù in ragione unicamente dei comportamenti dell'Unione Europea nei confronti del problema greco. Ci sono delle correlazioni perfette tra la non soluzione dei problemi della Grecia da parte dell'Europa, parlo estate, autunno, inverno, e peggioramento dello spread, e miglioramento dello spread con indicazioni risolutive, si spera definitive, nei confronti della Grecia. Questo quindi lei vuol sostengo, dire che Berlusconi non c'entrava, insomma. Io sostengo che il problema dello spread è un problema europeo, innanzitutto, che di volta in volta vede messe sotto tiro Grecia piuttosto che Portogallo, piuttosto Italia, piuttosto che Spagna, in ragione delle debolezze, come dire, congiunturali di questi singoli paesi. È certo che se c'è una crisi di governo in Italia e l'euro è sotto tiro da parte della finanza internazionale, è chiaro che l'euro viene colpito e in particolar modo viene colpito l'anello più debole, di volta in volta più debole. In questo momento, se si confermerà la crisi dell'area euro, una nuova crisi dell'area euro, l'anello più debole è la Spagna. Le chiedo questo, per tornare alla questione della riforma del mercato del lavoro, secondo lei, visto che è stato ministro della pubblica amministrazione, andrebbe applicata anche agli statali una qualsiasi riforma, perché insomma si dice assolutamente agli assolutamente sì, in realtà lo è già, se solo come dire, nel settore pubblico si utilizzassero le leggi. Nel senso che già attualmente nel settore pubblico si può licenziare. Sì, se uno rifiuta per tre volte il trasferimento, aspetti, per esempio. No, aspetti. Si può licenziare in generale. Se il licenziamento è illegittimo c'è la reintegra, si chiama tutela reale, e questo da sempre. Quindi l'articolo 18 c'è nel settore pubblico e quindi si applica. Io credo che una riforma dell'articolo 18 debba estendersi assolutamente anche al settore pubblico, anche perché altrimenti ci sarebbero problemi di costituzionalità. Per la cosa di cui lei parlava, la mobilità, è un ulteriore elemento se il dipendente pubblico, e la legge l'ho fatta io con l'ultima legge di stabilità, l'ultimo atto del governo Berlusconi, si rifiuta in termini di mobilità, all'inizio gli si diminuisce lo stipendio e poi viene licenziato. Solo che non vengono applicate, lei dice, queste leggi? Assolutamente mai. E perché? Perché il settore pubblico, ho cercato di spiegarlo e dimostrarlo in tutti i modi nei miei 42 mesi di governo, nel settore pubblico non c'è un vero datore di lavoro, perché il datore di lavoro pubblico, chiamiamola la politica, la burocrazia, è più attenta a esigenze di consenso che esigenze di efficienza o economiche o della qualità del servizio ai cittadini. Senta, onorevole, ma per concludere, ma lei almeno il metodo Fornero, cioè il metodo di un ministro che dice si tratta con le parti sociali ma fino a un certo punto, poi basta, si arriva a un punto, si tira una riga e si va avanti, le piace? Dovrebbe piacerle almeno, se un po' caratterialmente la conosciamo. Io ho grande stima per la collega Fornero, un economista del lavoro che conosco da sempre. Devo dire che in questi mesi il governo Monti ha fatto un gran pasticcio, lo dico con grande dolore, perché doveva partire da una riforma che ci aveva chiesto la Banca Centrale Europea, che ci aveva chiesto l'Europa, su cui c'era un impegno alla lettera del 26 di ottobre del governo italiano nei confronti dell'Europa, a riformare la flessibilità in entrata, a riformare la flessibilità in uscita e così via. C'erano degli impegni ben precisi, due mesi e mezzo di trattativa, ascolto, concertazione, dialogo sociale, chiamiamolo come vogliamo, con le parti sociali non sono serviti a nulla. Io mi aspettavo un decreto, oppure un decreto legislativo, un decreto legge, oppure un decreto legislativo che chiudesse come dire, la fase e desse al Parlamento un'indicazione precisa. Mi vedo, anzi non vedo ancora, il salvo intese, un disegno di legge e con uno sciopero generale proclamato dalla CGIL per maggio, guarda caso, con uno dei partiti di maggioranza che dice qualunque sia il testo, se le affermazioni sono confermate noi lo vorremmo cambiare, non c'è ancora un testo, un disegno di legge dopo che abbiamo subito almeno tre decreti legge su tematiche delicatissime, basti pensare tasse e pensioni. Ma lo vede un pasticcio, ecco, diciamo. Io lo vedo un gran pasticcio che tra l'altro rischia di aprire una palude parlamentare, a ribasso naturalmente, perché se lei pensa che il Parlamento possa rendere più rigorosa, più efficiente un testo uscito da un governo dei tecnici, pensa una cosa sbagliata evidentemente, con dei segnali, perché si parlava durante il governo Berlusconi che segnali stiamo dando ai mercati, e che preoccupazione eccetera, con dei segnali pessimi ai mercati. Cioè il presidente Monti in questi giorni in Oriente cosa va a raccontare rispetto alla riforma del mercato del lavoro, agli investitori che vogliono venire ad investire in Italia, che sarà più difficile assumere, che sarà probabilmente più difficile anche licenziare, e che c'è crisi sociale, che c'è una stagione di scioperi generali creata dal maggior sindacato. Insomma, la vede con questo pessimismo, insomma. Perché lei no, No, io faccio domande, guardi. Di solito una domanda presuppone un ragionamento. Sì. Intanto in genere presuppone un ragionamento, questo sì. Purtroppo il tempo è scaduto, onorevole, però lo approfondiremo presto. Io intanto la ringrazio. Io mi aspetto, lei non c'entra, un bel titolo del Sole 24 ore. Adesso Lo ripeta, che è andata via la linea. È ora di decidere. Questo decidere. È il adesso basta, me lo aspetto, lo dico al mio amico Roberto Napolitano. Va bene. Direttore del Sole 24. Grazie onorevole Brunetta per essere stato con noi, la pubblicità, e poi avremo ospite con noi il ministro della Salute Renato Balduzzi. Eccoci qua, insomma, sono le 8:37, 800 24 00 24, dopo aver avuto l'onorevole Renato Brunetta ospite qui. Vogliamo fare due chiacchiere con il ministro della salute Renato Balduzzi. Siamo in linea col ministero della salute in attesa che ce lo passino, insomma ci sono tanti temi di cui vogliamo parlare con il ministro, a partire da alcuni fatti di cronaca che sono sui giornali oggi. Niente, guarda dall'altra parte del vetro, 5 minuti fa ci abbiamo parlato, ma in questo momento il ministro evidentemente è impegnato prima di arrivare a Radio 24 in altre faccende, affaccendato. Non lo so cosa posso fare se non un appello al ministro Balduzzi di rispondere al telefono a Radio 24 che lo sta cercando. I fatti di cronaca allora intanto li riepilogo. Il primo è di una ragazza che è morta dopo aver assunto un farmaco che alcuni medici hanno prescritto è stato comprato su eBay, è stato ordinato su eBay. E questa ragazza purtroppo è morta, come purtroppo c'è stato anche il decesso di un atleta della pallavolo, Vigor Bovolenta, ex atleta della nazionale di pallavolo, che è morto durante una partita appunto perché non sono arrivati i soccorsi. Ma ci sono anche altri temi che vorremmo trattare con il ministro Balduzzi. Ministro, ci risponda, perché siamo in attesa, abbiamo parlato con lei 5 minuti fa, era tutto a posto, ma insomma qua stiamo in attesa di capire se il ministro alla salute arriva. Possiamo anticipare le informazioni sul traffico nel caso di qualche minuto? Le anticipiamo di qualche minuto? Vediamo, no, l'abbiamo recuperato, eccolo qua, il ministro alla salute Renato Balduzzi. Ministro, ci sente? Eccoci. Buongiorno ministro, eccoci qua, l'abbiamo cercata un pochettino. Senta, intanto grazie per essere con noi a Radio 24. Qualche domanda le vorrei fare sulla questione degli episodi di cronaca che io ho riepilogato prima di metterla in collegamento. Il primo è quello della morte di questa ragazza per dei farmaci che sono stati assunti e sono stati ordinati via internet. Senta, è una cosa che allarma, al di là di questo è normale comprare farmaci online per gli italiani? È una cosa che allarma, tanto più quando, come in questo caso, siamo in presenza di un circuito del tutto non regolare, perché risulta che anche l'ambulatorio dove il farmaco è stato assunto non fossero autorizzato, quindi quasi un circuito parallelo al sistema sanitario nazionale, che quindi in qualche misura richiede un potenziamento della vigilanza e del controllo. È chiaro che tutto quanto fuoriesce dal circuito normale della dispensazione del farmaco va attentamente monitorato, e soprattutto rispetto ai singoli cittadini il consiglio è quello di fare molta attenzione. Cioè, ma perché quello era uno studio non riconosciuto dunque, quindi ci sono dei medici che hanno prescritto tutto questo? Io confido che sia la regione sia le autorità inquirenti possano fare luce su questo episodio. Dalle notizie sinora disponibili parrebbe così. Senta, un altro episodio purtroppo anche questo cruento è il decesso di un ex pallavolista della nazionale, tra l'altro ieri durante una partita di pallavolo in Serie B2. Su questo fronte, cioè sul fronte del controllo anche medico delle persone, degli atleti, degli sportivi a tutti i livelli, com'è l'Italia? È a un buon livello di controllo oppure no? Noi abbiamo anche in questo campo degli standard di controllo elevati, dunque in generale c'è da stare relativamente tranquilli. Certo, poi la tragedia può sempre purtroppo accadere, però io vorrei ribadire che in generale i nostri standard di controllo sono considerati tra i più elevati esistenti nel mondo e comunque certamente in Europa. Senta, Ministro, c'è una discussione all'interno del governo sul tema, un tema che abbiamo già affrontato anche noi, del gioco legale, legalizzato d'azzardo, perché lei ha annunciato che vuole inserire la ludopatia, cioè quelli che soffrono di questa vera e propria malattia per il gioco d'azzardo, tra le malattie da curare anche con i LEA, cioè quindi da curare da parte dello Stato i livelli essenziali di assistenza. È giusto, le chiedo proprio brutalmente, è giusto dal punto di vista anche di un'etica pubblica curare una persona che liberamente ha scelto di, purtroppo a volte succede anche, rovinarsi col gioco d'azzardo? Beh, non stiamo parlando semplicemente di persone che come dire, esprimono la loro libertà individuale attraverso quella dimensione diciamo normale della libertà individuale che è il gioco. Stiamo parlando di una dipendenza, una vera e propria dipendenza comportamentale, stiamo parlando del cosiddetto gioco d'azzardo patologico, che non solo compromette il patrimonio, la socialità della persona, ma ne compromette proprio la, la salute. Quindi insomma è chiaro che rispetto a questo siamo in presenza di una qualche cosa che da molti decenni il mondo intero chiama malattia o malattia sociale. Dunque si tratta di capire, rispetto ad una malattia, per quale ragione il sistema non debba organizzarsi come si organizza rispetto a tutte le altre malattie. Quindi bisognerebbe proprio curarla, cioè considerare la ludopatia una malattia vera e propria, e quindi è come paragonabile a tutte le altre malattie, lo Stato la deve curare. Diciamo che stiamo parlando di una particolare versione del, dell'inclinazione al gioco d'azzardo, che proprio la letteratura internazionale chiama gioco d'azzardo patologico, che è qualcosa di più di quello che è un giocatore incallito. In questo caso si parla probabilmente di gioco d'azzardo problematico, che spesso è l'anticamera peraltro del patologico, cioè il patologico è quando la persona entra in questa spirale e non riesce più a uscirne, con delle conseguenze disastrose per quanto riguarda la sua vita personale, familiare e la sua stessa salute. Sa cosa, Ministro? Non so, un liberale come Piero Stellino subito forse la bollerebbe di una sorta di stato etico. Le faccio questa domanda perché lei è anche un giurista, cioè lo Stato che decide in pratica cosa è giusto, quali sono i comportamenti giusti da tenere, quali no, anche di fronte alla scelta invece, se si può dire, libera di una persona, dico anche di rovinarsi se uno vuole, la pongo agli estremi conseguenze. Non è che noi costringiamo queste persone a un trattamento sanitario obbligatorio, il sistema sanitario dà la possibilità a queste persone di recuperare la propria salute e il proprio equilibrio. Poi se non lo vogliono fare nessuno li potrà costringere, non c'è nessuno stato etico, ecco, evidentemente, cioè è una estensione del principio di solidarietà sociale, dei principi di fondo della nostra Costituzione, che è una Costituzione di uno Stato liberal democratico. Lei non vuole però spingersi anche a vietare la pubblicità del gioco d'azzardo, come propone invece il suo collega di governo Riccardi? Cioè come la vede questa questione sulla pubblicità? Siamo assolutamente sulla stessa linea con il ministro Riccardi, tant'è vero che stiamo lavorando noi e i nostri uffici insieme per una proposta comune, anzi siamo già molto avanti in questa proposta. Quello che io sottolineo, ma c'è su questo punto, anche su questo punto, la stessa opinione da parte del collega di governo, è che non si tratta evidentemente di un divieto generalizzato, perché spesso la possibilità di segnalare che esiste un qualche momento di gioco è connesso anche a fatti assolutamente positivi, a realtà assolutamente positive, quindi una proibizione generalizzata andrebbe incontro, oltre che a difficoltà di ordine diciamo istituzionale, costituzionale, probabilmente anche a difficoltà di ordine tecnico. No, si tratta di vietare e di assoggettare a particolari controlli, semmai la discussione, ma non tra me e il ministro Riccardi, ma la discussione più in generale all'interno del 20 ventaglio di possibilità sì. che ci sono in questo campo e di vedere attraverso quali tecniche sia più opportuno arrivare a limitare la pubblicità. La discussione sì. è come appunto limitare la pubblicità truffaldina, la pubblicità sì. che fa pensare a chissà quali magnifiche sorti e progressive, giocando. A chissà quale cambiamento della tua vita possa essere dato da un'attività come il gioco, la scommessa, in cui la possibilità di vincere, la probabilità di vincere è assolutamente esigua. E qualcuno ha anche accusato, se vuole, lo Stato un po' di lo Stato in generale di una sorta di forma ipocrita, cioè da una parte dire prendiamo molte tasse dal gioco, dall'altra parte le sta dicendo nel caso ci fosse una ludopatia è giusto curarla. Non sono comportamenti contrastanti da parte di un'istituzione come lo Stato? No, sono contrastanti soltanto quando, come può accadere, perché insomma evidentemente bisogna sempre fare in modo che tutto sia coerente, e quando si finisce per incentivare attraverso forme pubblicitarie anomale il gioco d'azzardo. È chiaro che sì, questo lo fa lo Stato, allora ci può essere contraddizione, ma se non ci sono queste forme non corrette non c'è alcuna contraddizione, perché uno degli strumenti attraverso cui lo Stato regola, lo Stato, i pubblici poteri, sì, certo. Stato, i pubblici poteri, la collettività organizzata in istituzioni regola la vita sociale e tra l'altro la leva fiscale, quindi non c'è proprio nessun problema. Non c'è contrasto. Io proprio eviterei di parlare di Stato biscattiere. Allora, siamo ancora per 5 minuti con il Ministro alla Salute, Renato Balduzzi. Ministro, mi faccio fare una domanda politica, perché leggevo le cronache del Consiglio dei Ministri di venerdì che la davano tra i più, se si può dire, scettici o più prudenti sulla questione della riforma del mercato del lavoro e l'inserimento anche delle questioni legate all'articolo 18. È davvero così? Lei la vede, è anche un ministro del governo Monti, e dunque che ne pensa di questa riforma? Ci voleva un decreto? È meglio essere prudenti? Ma io credo che la decisione del Consiglio dei Ministri di preparare un disegno di legge corrisponda alla natura di questa materia, alla sua delicatezza e alla necessità che su di essa si possa esprimere completamente una valutazione parlamentare, quindi credo che sia stata assunta una decisione saggia, dunque di non accelerare, non andare. Il decreto poteva essere un braccio di ferro, forse, visto un qualcosa di troppo impositivo e poco di discussione? Beh, il decreto legge per sua natura comprime di molto, è una decisione che entra immediatamente in vigore e deve essere confermata dalle Camere in un lasso di tempo molto preciso, che sono 60 giorni, quindi per sua natura comprime di molto la discussione politico-parlamentare, che su una materia di questo genere è così complessa, perché tutta la discussione si è focalizzata sull'articolo 18, anzi su alcuni profili interni alla modifica dell'articolo 18, però in realtà il progetto del governo è molto più ampio e tocca la totalità della vicenda del lavoro, per poter dare più lavoro ai nostri giovani, per poter dare più garanzie, più tutele nell'ipotesi in cui il lavoro manchi o sia perduto. Quindi è un lavoro molto ampio, che è un progetto molto ampio, che dunque chieda legittimamente spazi non infiniti, naturalmente, perché alla fine bisogna arrivare alla soluzione, ma che non siano eccessivamente complessi di discussione parlamentare. Sì. Ministro, lei di recente ha anche detto: vorrei il medico di base per gli italiani 7 giorni su 7, ma cosa vuol dire? Che lo Stato deve assumere, e ci sono risorse per assumere nuovi medici, o una migliore riorganizzazione di quelli che ci sono già? Cioè nulla di nuovo, peraltro, ecco, da tantissimi anni si ragiona di una riorganizzazione della medicina generale, del medico di famiglia, per superare questa concezione del medico di famiglia da solo, ma integrandolo in una rete di medici di famiglia che possano corrispondere appunto ai bisogni sanitari tutti i giorni, senza soluzioni di continuità. Ci sono importanti sperimentazioni in diverse regioni da tempo su questo punto, forse è venuto ormai il momento di condivise su questo punto per migliorare una delle più delicate e importanti parti del servizio sanitario nazionale, cioè la medicina di base. Io ho ancora un minuto, ministro, mi faccia fare questa domanda, visto che lei è anche un giurista, sulla questione delle unioni omosessuali, tema molto spinoso in Italia. Secondo lei l'Italia è pronta alle unioni omosessuali? Al riconoscimento del matrimonio omosessuale, per esempio? Ma credo che siano situazioni da distinguere, cioè una cosa è il dare un rilievo anche giuridico a quelle che sono formazioni sociali di fatto, che quindi realtà di convivenza esistenti, probabili, dimostrabili, reali, che esprimono una relazione affettiva, altro è la forma giuridica, quella che nel nostro ordinamento è riservata secondo Costituzione alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Quindi secondo lei questo va preservato? Da distinguere, ecco, io dico soltanto questo, non è nel merito perché non è evidentemente nelle